Femministe e lesbiche di tutto il mondo, unite ai microfoni. 24 ore non stop, MFLA su Radio Onda Rossa. You've shown me just how much you care. You've given me the thrill. Allora, se c'è qualcuno all'ascolto, grande, intanto che ancora ci fa compagnia alle 5:11 minuti, noi stiamo per collassare aspettando i cornetti con la crema che ci daranno il glucosio per arrivare a casa. E torniamo a Rete Indiana e Los Misterios. Sabiendo dos hermanitos compartiendo un pedacito, porque eran muy pobrecitos y no tenían ni mamá. Ellos se preguntaban por qué si somos dos gente no se hacen comer, no uno nada más. Su país se la buscaba trepado en una patana, repartiendo plátano y pata y trompa. Y cuando los dos niños entraban a la mordida, el papá le decía la verdad. Martedì autogestito da femministe e lesbiche. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotta, lotto. Lotto, lotta. Lotto, lotta. 24 ore di diretta radiofonica femminista e lesbica, non stop. si apaga la meditati applausi per la Sadesella, eh? Ah, beh, sì, direi di sì. Tristezza, malinconia. Anche un po' per noi è arrivato le 5:20. Brave. Sì. Brave. Siamo fatta, eh? Poi sì. Rimaniamo sempre qua a zoccolo duro, qua tutte lì a fase. Zoccolo duro. Eccoci qua. A zoccolo duro. Allora. Siamo sempre noi. E io, però, a sto punto, dopo l'oroscopo, vi propongo le previsioni del tempo. Ho capito, noi stiamo sul pezzo, mica. Cioè, mica aspettiamo. Ce ne pensa niente. Ah, Giuliacci, mira. Giuliacci. Siamo quello dei medio. Giuliacci. Ma che sei c'è la televisione? Giulio Giuliacci, mi sembra si chiami, eh? Ti sembra. Non so. Ti non sembra. So. E tu sei l'esperta, l'hai proposto tu, ti crediamo. Sì, quello che dice. Le precipitazioni. Le precipitazioni. Allora io sono... quando se famo la. Aspetta, me lavo gli occhiali, aspetta, così aspetta. Vengo bene in foto. Un attimo. Allora. Cagionaria zero proprio. Quando se famo le. Coccole sentimo domenica. Se famo le coccole la domenica e siamo guardato. Sarà? Se siamo guardate le previsioni del tempo. Tipo, quando c'è sta un corteo, no? C'è sempre sta cosa di guardarsi le previsioni del tempo una settimana prima. Che ma si sa che non so giuste. Lo sanno tutti, però noi stiamo fissa. Allora, giorno per giorno, regà, domani piove, nuvoloso, cambia così. Vabbè, domani, però, allora, questa è un po' più facile, può essere che gliela famo. Visto che ormai si parla di 3 ore. So, vediamo se sono un po'... Non riesco manco più a fare foto, regà, a canno, perché c'è... Neanche il digitale. Stai bruciando la carriera? Sì. Era una carriera importante. Dai, dai, allora, devo dire, a parte questo. Allora, la mattina, dalle 7 alle 10, vediamo il Lazio, dove ci troviamo noi, nuvoloso. Poi, nelle regioni del nord, sole coperto. Allora, vediamo Marche e Abruzzo sempre insieme, lo metto, non so se ci fate caso. Marche e Abruzzo così è, così si è preso. Se fanno caldo, messo. Perché tra tutte e due certi. Marche e Abruzzo, pioggia. Pioggia e qua mette pure un po' di neve sull'Appennino. Così sulle dicono. Sull'Appennino centrale, neve, precipitazioni e neve. Poi salendo verso il nord Italia vediamo Emilia Romagna. Sto a parlare con te. Emilia Romagna nuvoloso, si attiene sempre su una vaga nebbiolina. Nebbiolina sulla Padania. Non capita mai. Salendo su, vedi nebbia qua, vedi questi qua, il sole con queste cose qua, nebbia. Poi Lombardia sole, Piemonte sole. Liguria sole, vedi, io so le regioni, Liguria, Veneto, nord-est, no? Meglio sole che nebbia. Malaccompagnata. Nebbia. Che neve come in Abruzzo, ecco, con rispetto. In Sicilia, andando al sud, vediamo che le perturbazioni sono più spostate sulla Puglia e la Basilicata. Pure Puglia e Basilicata sempre insieme. Puglia e Basilicata. Dobbiamo dire che ha prestato grande attenzione. Io mi sa che dovevo fare questo nella vita, poi ho scelto altro. Puglia e Basilicata. E poi in Sicilia, nelle isole nuvoloso, tutte vicine, capito? Tutto quale sono, no? Le isole, sì. Poi qua sotto te lo fa vedere questo disegno sotto, che ti fa vedere proprio la perturbazione, vedi come ruota nell'Appennino settentrionale, come si chiama? E gira e poi gira nelle isole. Trottola sulle isole. Ecco, questa saltando è la mattina. Saltando la Sicilia. Mentre nel pomeriggio vi posso dire anche la situazione si aggrava. La situazione un po' si aggrava, dai, nel senso che sempre no, allora nel Lazio c'è stato assonato. Sì, c'è qualcuno che sveglia. Vedi, il meteo porta fortuna. Allora, questa cosa qua che nel Perché Lazio c'è sempre capire domani che giornata. Oddio, va in diretta, ti prego. Dai. Dice che non è in condizioni. No, per sempre forza, così. Sarà in condizioni anche migliori delle nostre. Per me l'ha stimolato il tempo. È stato il tempo. Diciamoci la verità. Vuole fare un commento sul meteo? Aveva bisogno di. Ci mandano i saluti. Va tutti bene. Allora rispondiamo con i saluti. Una bella giornata di sole. Ah, il clima è mite a Casal Bruciato, ci danno il meteo a tempo reale, per adesso ancora si può fare, però credo che anche a Casal Bruciato forse è meglio togliere i panni sì. Prima del pomeriggio. No, diciamo guarda che è nuvoloso. Regge. No, è brava, mi piace, è preparata ragazza. Va bene. Stiamo a fare cazzi, no. A domani. Sì, sarà vabbè. Anche il caso di dire che okay, sarà domani. Dai, una giornata Marta di sole. Marta al telefono, intanto noi dai, comunque andiamo avanti con il pomeriggio. Non si sa chi era Marta. Chiama era Branda, ecco. Era super Branda che stava tornando a casa e dice Casal Bruciato, clima mite, un po' di nebbiolina. Nebbiolina tipo Padania. Vabbè, ho capito, adesso siamo ai 5:25, che ha? Cioè, allora, fa nebbiolina, no? Allora, posso dire una cosa? Il sole domani. Cioè, Branda sta tornando a casa alle 5:25? Non mo' realizzato, è mattina, oh. Capito come? Giovane. Siamo arrivati alla mattina. Giovane. Giovane sta gente. Allora, te volevo dire sta cosa, no? Che canzone dalle 13. Sul sole. No, regà, dobbiamo finire il pomeriggio perché poi abbiamo il corteo. Dobbiamo un attimo. È vero, dobbiamo concludere con sto meteo, se no, cioè, non si capisce la perturbazione. Come si è spostata. È vero. In effetti, quello che succede è che nel basso Lazio, però questa è tecnica. Nel basso Lazio vediamo che c'è pioggia. Mentre nella zona quella romana, Roma e provincia, vediamo che continua a essere nuvoloso. Io c'ho i panni stesi fuori, mo che torno a casa li ritiro pure perché sennò mi si inumidiscono, capito? Capito. Però puzza, va bene. Allora, qua manteniamo il nuvoloso, quindi va bene per il corteo. Il corteo regge al Pigneto, zona Pigneto, la piazza Condottieri, la Deo, Prenestina, Policlinico, funziona tutto. Poi spostiamoci nelle altre zone, sempre raga, Marche, Molise, che a me sembra questa zona qua, se non sbaglio, di questo che è? Quello è sempre l'Appennino centrale. C'è scritto Abruzzo, ecco, ho sbagliata. Le conoscevi le origini? All'Abruzzo, raga, l'Abruzzo è un casino. Arinevica, pioggia, mi spiace, pioggia e neve nel pomeriggio. Poi scendendo la Puglia si ripia e c'è star sole, solo in nuvole, mentre la Basilicata gli sta un po' sfigata, perché qua la perturbazione si fa intensa e gli sta nel nuvolone nere. Quella è la Calabria. Calabria e Basilicata, le so, Calabria, Basilicata e Calabria. Zitta, le so. Qua nello stretto di Messina, dove vogliono far ponte, vedi questa, so, vedi qua, pioggia nera, pioggia nera. Non ci stanno speranze. Si scende sotto, però la Sicilia comunque rimane nuvolosa. Sicilia e isole, pioggia. Bello. Mentre il nord migliora, vediamo questa parte della Toscana. Sole, si può andare a mare chi vuole, però meglio dal corteo, insomma. Poi la regione tua, l'Emilia e la Romagna, vediamo sole, la nebbia si sposta nel nord, Basso Veneto, nuvoloso e poi vediamo che comunque la sera, se volete uscire, mettetevi la giacchetta, perché le temperature si abbassano notevolmente tra i 5 e i 10 gradi. Vediamo nuvole e la luna che compare. Purtroppo l'Abruzzo sempre neve e pioggia. Quindi siamo pronte per andare a sciare. Se vogliamo possiamo fare pure un weekend con lo snowboard, tavola, sci, eccetera. Qua nell'Appennino c'è la neve. Nell'Appennino centrale. E questo c'è la è tutto. Salutiamo Giuliacci, che sicuramente ci ascolterà a quest'ora, e lo ringraziamo perché comunque io c'ho un sapere specifico sul medio, anche un linguaggio, non so se devi sapere, secondo certo, tecnico certo. E niente, magari se mettiamo pure un po' di musica, Marta, usciamo da sta situazione. Sono preparata, grazie, cioè ti non ringrazio, sono prontissima. La prossima canzone si chiama Vieja, the next song is called Vieja. Algún día voy a ser vieja y voy a tener pocos años para vivir. Mi piel tendrá más arrugas, mi cabello lleno de canas, pero podrá. Allora è arrivato un trillino che secondo me è di coloro che si stanno svegliando per venire qui. Ci trillano, buongiorno. Buongiorno. O buonanotte, eh. La casa sarà vacia, però potrà decir che vivi. Mira come passa il tempo. Mira tutto lo che has hecho. De cosas que todavía quiero hacer. Quiero aprovechar, quiero disfrutar la vida entera hasta el final. Quiero aprovechar, quiero disfrutar la vida entera hasta el final. Quiero aprovechar, quiero disfrutar la vida entera hasta el final. Quiero aprovechar, quiero disfrutar la vida entera hasta el final. Algún día voy a ser vieja y voy a tener pocos años para vivir. Mi piel tendrá más arrugas, mi cabello lleno de canas, pero podré decir que viví. Algún día voy a ser vieja y me faltarán pocos años para vivir. Mis hijos habrán crecido, la casa será vacía, pero podré decir que viví. ci si sveglia, continuano ad arrivare i trilli, qualcuno si sveglia o qualcuno giustamente va a dormire dopo una notte fantastica. Mitica Marterona, capito? Ho mixato. Maratona del martedì di femministe e lesbiche. Che altro aggiungere? 5:32 minuti, il più è fatto, sì, è andata. Non ci credevamo neanche noi tra un po', diciamo la verità. No, fra poco dovremo scendere dal traghetto. Vabbè, è stata una bella navigazione. Eravate affezionate. Ti è piaciuta la navigazione B? Va bene. E infatti, insomma, tra meno di mezz'ora a questo punto il breakfast con Claudia, poi la rassegna stampa dalle 8 alle 10. Ve l'abbiamo ricordato poco fa, lungo il palinsesto di questa lunga maratona. Io direi che bisogna ringraziare anche le martedì che si accollano sempre di metterci insieme, no? Di stimolarci, di dirci dai, regà, famo. Tutte 24 le ore. Ci serviamo in tante, sì, perché insomma non è proprio uno scherzo. Tutte. Dai. Me out. indubbiamente ci teniamo le teste, però. Indubbiamente ci teniamo a dire che certo che siamo ancora qui. Poi non molleremo proprio nell'ultima mezz'ora. No, anche sono quasi 23 minuti. 23 minuti. Li stiamo a contare. Quest'anno siamo arrivati un po' sfiancate. Quest'anno è stato più pesante. Però anche avrei perché carità, si mettono insieme grandi giornate. Che c'è da fare domani? Domani ci sono un sacco di cose da fare. A parte seguire. Continuare a seguire la maratona. Beh, chiaro. Comunque ci informerà, ci parlerà, ci dirà delle cose, eccetera. Però diciamo che qui in quel di Roma ci sarà un corteo che partirà dalle 3 a, da piazzale dei Condottieri, zona Prenestina Pigneto, per arrivare a Policlinico. Un corteo che è stato addirittura inizialmente negato dalla questura di Roma, adducendo motivi che riguardavano il traffico. Cose mai sentite? Mai sentite. Sentite che l'8 marzo si nega un corteo a gruppi di donne, eccetera, per traffico sulla Prenestina, poi no? Non è che dici sto attraversando chissà quale zona di Roma, eccetera. Poi il sabato pomeriggio, quindi fa un po' ridere come questione. È stato alzato, diciamo, un po' una questione, è stata fatta un'azione e poi una conferenza stampa. È stato bloccato quello che l'ordine dei medici, c'è stato un blitz che chiedeva che insomma fosse abolita in qualche modo la figura del medico obiettore. E oltretutto quello che è stato denunciato anche in queste settimane è la presenza anche di farmacisti obiettori sulla pillola del giorno dopo, che ricordiamo non essere un farmaco abortivo, e quindi in sé già diciamo non si può essenzialmente obiettare su un farmaco non abortivo. E oltretutto non esiste la figura del farmacista obiettore, se purtroppo esiste quella del medico obiettore, quella del farmacista obiettore non esiste assolutamente. Quindi se vogliamo stare all'interno della legalità, che a noi non ci piace, però comunque per rimanere, diciamo, nel linguaggio della legalità, questo atteggiamento, diciamo, è del tutto illegale ed è un'omissione di soccorso, non so come giudicarla. E in qualche modo si lega, quello che mi viene da dire è che si lega allo strapotere da una parte dei medici, da una parte di un personale, diciamo, farmaceutico, che evidentemente gestisce quello che è il farmaco come una concessione personale. Quindi c'è un farmacista che nega la possibilità di accedere a un farmaco che per legge dovrebbe essere distribuito attraverso, chiaramente, ricetta, qualora questa ricetta è stata consegnata a questi farmacisti, questi hanno detto che non c'era, che non era disponibile, che in quell'esercizio non si vendeva, come se si vendessero, ne so, banane. Oggi banane ci stanno. Allora queste le compagne che hanno costruito questa azione hanno chiesto essenzialmente se questo farmaco poteva arrivare, cioè si poteva aspettare. Si vuole aspettare del tempo per prenderlo ugualmente, e a un certo punto questi obiettori farmacisti hanno affermato che no, che loro erano degli obiettori. Su questo è stato prodotto un video di denuncia che sta girando sui vari blog, siti femministi, eccetera, e che proprio riporta l'audio di questa conversazione da parte nostra, chiaramente inaccettabile. Uno spazio di denuncia che purtroppo sempre più medici obiettori sono presenti all'interno degli ospedali o dei consultori, e purtroppo quello che ci troviamo davanti ormai da anni sono anche queste figure dei farmacisti obiettori. Quindi il corteo parte, diciamo, dopo una settimana e più di mobilitazione che gruppi di donne, singole, collettivi hanno messo in campo nel territorio romano, in varie zone, insomma, si sono fatte delle cose, si è provato ad alzare quella che è l'attenzione pubblica su questo tema, provando dove essenzialmente il Lazio è una regione abbastanza arretrata sulla, diciamo, sulla possibilità di accedere alla pillola del giorno dopo, di, non parliamo della RU 486 che non viene proprio data, cioè non c'è uno spazio neanche negli ospedali, penso che sia solo, forse solo un ospedale se non sbaglio, non vorrei sbagliare, poi domani ci sarà sicuramente un approfondimento, però così tanto per spiegare, no? Penso che sia solo un ospedale in cui si può accedere all'aborto farmacologico, quando questo invece dovrebbe essere possibile per tutte e tutti. Quindi quello che si richiede soprattutto in questo corteo è quello di rendere la di rendere accessibile, gratuito e libero l'aborto attraverso tutte quelle, sia l'aborto appunto quello, diciamo, classico, che quello farmaceutico attraverso la RU 486, cercando di rispettare quella che è il volere e l'autodeterminazione delle donne. Questo corteo, ricordiamo, che nasce anche in sintonia e in solidarietà con quello che è successo in Spagna, che sembra un po' un disegno, no? Un disegno sul controllo, sul solito controllo delle nascite, sul solito controllo dei meccanismi di riproduzione e delle vite delle donne. È una lotta che purtroppo mi sembra un po' senza fine. È una lotta che ci troviamo ad affrontare da anni e anni, non si sa quanti anni ancora dobbiamo affrontare. È una lotta indispensabile, perché ricordiamo che sono paesi in cui l'aborto è ancora illegale, in cui ancora le donne muoiono per l'aborto. Ricordiamo che nel nostro paese spesso le donne migranti non possono accedere gratuitamente a strutture sanitarie, e questo è legato essenzialmente a un meccanismo di cittadinanza. Insomma, ci sono tante cose da dire. Speriamo che questo corteo sia un corteo partecipato, speriamo che sia espressione della nostra rabbia, della nostra determinazione, che in qualche modo riesca a lanciare un grido di rabbia da una parte e dall'altra a stringere meccanismi di solidarietà, di sorellanza e la possibilità appunto di coscienza di quelli che sono i nostri corpi e quelli che sono, dovrebbero essere, i nostri diritti e le nostre libertà. Hasta la olvido. martes a la noche y me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar, y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más, pero el viernes la sonrisa no me la puedo sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, es domingo a la noche, me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar, y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más, pero el viernes la sonrisa no me la puedo sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, el domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día. Stavo il microfono, continua a cantare, che è successo? Niente, siamo state boicottate così. Vabbè, comunque questa canzone fondamentale, fondamentale, dice che bisogna creare un altro giorno nella settimana, perché se no non ci si riposa, nel senso che poi arrivi al weekend, sei sempre molto stanca e vuoi morire per la stanchezza, poi fai il weekend e comunque ti stanca, giustamente, sei sempre stanca. Allora questa canzone dice che bisogna creare un altro giorno nella settimana in cui ci si riposa anche dal weekend, perché che vuol dire? Il giorno del riposo. Eh sì, il giorno del riposo, che non è la domenica come diceva qualcuno, ma è dopo il weekend, c'è un altro giorno che noi chiamiamo, come vogliamo chiamare? Nel descanso, il giorno dello svacco, in cui ognuno fa quello che gli pare, basta che non si stanca, perché sennò dopo bisogna creare un altro, altrimenti è una roba. Tocca un altro mese, poi un anno di svacco per riprendersi dall'anno prima. All'anno prima, non sarebbe male. Comunque, posso dire una cosa: mancano 8 minuti. Noi possiamo pure dire questa cosa che mancano 8 minuti, 7 minuti, però se qua non arriva nessuno. Cioè noi ci stanno qua, capito? Ce la stanno qua sudando. C'è molta fiducia. Facciamo tutto insieme. Sì, tutto insieme. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Lo, lo, le, wo, wo. Voy a marcharme deprisa. Lo, lo, le, wo, wo, wo. Que aunque tú ya no me quieras. Lo, lo, le, wo, wo, wo. A mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí jodida pero contenta. Tú me has doblado pero yo aguanto. Dolida pero despierta. Por mi futuro. Yo voy haciendo camino. Pain in my soul, down, down. destino. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, wow, wow. Así es que me voy va cantando pa' la orillita del puerto. Wow, wow. Y el primer barco que pase que me lleve mar adentro. Y en este planeta mío. Ay, hace mucho tiempo que empezó.